avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail. Ça fait déjà. Ci sono dei momenti fatali nella nostra esistenza in cui i condizionamenti spazio-temporali vanno a farsi benedire, in cui la separazione e la scansione temporale che fa parte della nostra misurazione dell'esistere viene completamente scombussolata. Questi possono essere questi momenti di confusione nella nostra vita, chiamati in varie maniere. Possono essere chiamati rimpatriatri fra colleghi di scuola, rimpatriatri fra colleghi di lavoro, o a volte anche compleanni o anche funerali. A me è accaduto di avere uno di questi momenti di entrata in dimensioni parallele in cui il tempo sembra riproporti davanti quello che tu hai già visto, ma in maniera implacabile, in maniera a volte crudele. È stato un funerale. Pochi giorni fa sono stato al funerale di quello che posso dire essere il mio maestro di radio, che era Corrado Guerzoni, era la persona che nel 1983 mi prese giovane scavezzacollo nulla facente e mi insegnò a fare questo mestiere che modestamente continuo a svolgere da 30 anni. Ahimè, come accade nell'esistenza di tutti gli uomini, qualche giorno fa è morto, quindi sono andato al suo funerale, non potevo farne a meno, ero fortemente legato, anche se non lo vedevo da 30 anni, a quest'uomo a cui ho imparato tutto quel poco che so fare, con cui ancora mi guadagno il pane. E lì, ahimè, ho rincontrato i miei colleghi di 30 anni fa. Un paio di quelle 10-20 persone ancora ogni tanto li vedevo con una cadenza triennale, non più, ma gli altri non li vedevo veramente da 20 anni, 25 anni, qualcuno da 30 anni. L'ho rivisti tutti davanti. Mi sono nascosto naturalmente nell'angolo del confessionale per stare nascosto, per vedere senza essere visto, perché mentre tutti si erano aggruppati, si era fatto il gruppo della vecchia squadra del 3131, che eravamo la trasmissione per cui tutti abbiamo lavorato, io stavo nascosto e li guardavo. Guardavo quella che era la bella, la desiderata, che adesso era inguardabile. Quella che era la brutta, che invece è diventata bella con l'età. Li vedevo tutti ingrassati, stazionati, invecchiati. E mi guardavo riflettendomi nel vetro di un'iconcina accanto a me con tutti i cuori e gli ex voto, dicevo anche loro mi vedranno così. E quindi sono sgusciato e sgattaiolato dalla chiesa assieme a un manipolo di timorosi come me di questo incontro spazio-temporale, senza avere il confronto con gli ex colleghi. Per quante volte nella vita avevo accaduto di rincontrare persone che avevate dimenticato anche di aver conosciuto. Quanto avete partecipato alle tragiche o divertenti o strappacuori rimpatriate fra vecchi colleghi di classe? Oggi il social network in questo è terrificante, implacabile. Mi sono ripresentate vecchie fidanzate di 40 anni fa. Non è impossibile. Vediamoci, ma sei pazza. Vediamoci, che facciamo? Incrociamo i cateteri. Ma Dio mio, sarebbe impossibile. Compagni classe, ti ricordi di me? Mandano delle foto di noi nel campetto dei Salesiani durante la partita di calcetto. Io naturalmente vestito bene, perché non giocavo a calcio, perché avevo le scarpe quelle con i lacci a punta e non potevo giocare a pallone con quelle scarpettine lì, con la suola liscia. E questi sono momenti che nella vita bisogna affrontarli come bisogna affrontarne anche tanti altri. Questa mattina con il filo Giuseppe Sansonna qui al mio fianco, buongiorno. Giuseppe, buongiorno, cercheremo di vedere come attraverso la storia del cinema questi momenti che fatalmente ognuno di noi deve attraversare sono stati affrontati. Attendo all'800240024 la vostra corroborante testimonianza. Fino chiaro, ciao. Aumarendo, chi dovresti da essere? Ma come, non mi riconosci? No. Sono Fabrice. Fabrice? Ma che mi sta a piar per culo? Sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabrice. Primo banco a destra. Ma non ci provo, tu ci hai avuto un crollo. D'ottavo grado dalla scala Mercalli, però. E dai, non esagerare, Sono anche passati 15 anni, Ma eppure per me sono passati 15 anni, te. Ma lo vedi come sto? Guarda che robetta. Io sto in forma smagliante, Ma te? Tu sei sempre lo stesso. Non sei cambiato per niente. Giuseppe, a te mai è accaduto qualcosa del genere? Sì, vabbè, ma in realtà poi appunto con Facebook c'è questa riduzione del mistero, perché qui c'è un incontro fra persone in questo film di Verdone in compagnia di scuola. Sì, ma Facebook, capito, è È il preambolo, vedi una fotina, magari fatta al mare, tutta abbronzata, di un'altra quindicina di anni fa, vediamoci, ma tu dovresti resistere alla tentazione di rivedere una persona, perché è come avere un incontro fatale con quello che tu sei. Quelle immagini, quei contemptus mundi che mettevano nei monasteri una volta, quei teschi ti dicevano: ah, io sono come tu sarai. Ricordati, tu sei che devi morire. Il troisesco, ricordati, sì, che devi morire. Siamo qui a scarnificarci le gonadi fino alla fine della trasmissione, se andiamo avanti su questo passo. No, invece, tornando su un tono più leggero, il film dell'88 in realtà racconta appunto questa dimensione pre-facebookiana in cui si rincontrano questi vecchi compagni. Qui abbiamo sentito il trimarcionesco Finocchiaro, il greve macellaio arricchito che arriva con la sua Porsche Carrera, la camicia aperta, la sua vociona romanesca, incontra Fabris, che è quello invece che ha avuto uno sdilinquimento, un prosciugamento fisico, e che quindi porta su di sé i segni del tempo in maniera violenta. E quindi c'è la prima collisione, l'apertura di questo film, che è il più loseriano di Verdone, il più feroce, il più cattivo e forse il più bello in assoluto, perché pone questo gruppo di attori, li sottrae al approfondimento da cliché del primo piano su ciascun attore e li rende per sottrazione più incisivi, più duri e quindi più veri e autentici. 800 24 00 24, se anche voi avete attraversato il vostro grande freddo o se state per mettere il piedino in una rimpatriata tra ex compagni di classe, compagne di corso di danza, compagni di squadra di pallacanestro, pensateci bene o perlomeno raccontateci quelle che sono le vostre impressioni. Ho sbagliato festa, ho sbagliato villa, infatti mi coincideva tutto, il cancello, il chiosco, il vialetto, solo che quando sono entrato mi ha preso un colpo, perché ho visto 200 teste bianche, tutti vecchi, quei rughe in faccia, mi sono detto: ammazza come ci siamo ridotti. Oh, molto fine. Sì, veramente di classe. Vabbè, comunque è una festa di nozze d'argento. Forza su, sbrigati. Ah, mi stava a scordare. Qui sul cancello, se ne entri piano, c'è una radicina di vino. Attento che sfugna la coppa dell'olio. Senti, guarda, il problema qua è un altro. Quando io sono entrato, c'avevo 4 bottiglie di champagne che erano per Federica. Sono entrato e si è presa questa padrona di casa, che mi ha pure ringraziato. Che devo fare? Allora fatti ridà. Che mi faccio ridà, Hanno stappate, se stanno pure a bere, Ma che cacchio mi chiede a fa? Fere che gli importa cenere, ma ora dai, va. Giuseppe, questa terrificante, spaventosa, ma calzante interpretazione di Verdone ci dà l'idea quanto poi il tempo in realtà peggiora gli aspetti esteriori, ma rimangono intatte quelle che sono le tare psichiche di ognuno di noi. Ogni compagno di classe rimane quello che è, soltanto si imputridisce la sua carne, ma l'animus è sempre quello delle classificazioni dei generi umani che abbiamo fatto sui banchi di scuola. E poi è interessante questa nostalgia che si ha del palcoscenico scolastico in cui si è incasellati alla sorvegliare e punire di Foucault, si è chiusi in questi giudizi, in questi voti, in questa convivenza, in questa complicità cameratesca, in questo desiderio dell'altro sesso. E quindi si cerca con nostalgia il ritorno continuo a quella dimensione costrittiva ma rassicurante allo stesso tempo, e qui forse che nasceva la nostalgia forte della rimpatriata, la necessità, l'impulso alla rimpatriata. Gianni, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno Nicoletti. La prima vittima di una rimpatriata. Buongiorno a tutti, bravo. Giusto, io ho 63 anni. Tre anni fa un ex compagno di scuola ha deciso di invitarci tutti alla cena del 40° del diploma. Sì, quelli che erano sopravvissuti però. No, ma c'eravamo tutti. Tutti vivi? Ah, bella fortuna. Io mi sono... La mia classe del liceo è decimata, ne sono morti un sacco. Il 1968. Sì, qualcuno... No, giusto, è vero, un paio mancava. È logico, è fisiologico. Posso dire che siamo presentati con la foto, l'ultima foto del quinto anno. Non ci riconoscevamo più. A parte due con i quali mi rivedo continuamente, che allora... tra me e loro non si vedono i cambiamenti. Sì, certo. Però ho avuto una bella sorpresa, una bella bionda, che allora era una bellissima bionda, adesso comunque ancora una bella bionda, mi ha detto: ma lo sai che sei meglio adesso di allora? E lì c'era anche suo marito, comunque va tutto bene. E detto questo, finita così. Però con gli altri io... Beh, le ha lanciato un messaggio palese, era la compagna di classe, esatto, che lei non ha mai avuto il coraggio di intimamente corroborare, e dopo 40 anni le si ripresenta disponibile. Cosa fa? Si tira indietro. A 20 anni ero innamorato di un'altra e di conseguenza non vedevo le altre. Adesso però la vede. Poi cos'altro è successo? No, vabbè, comunque... Ma il bilancio mi sembra positivo comunque alla fine. Sì, devo dirti, ma qualcuno non l'ho riconosciuto, dico, ma chi sei? Ma come ci sono? Sono Fabretti, ma Fabretti chi? Guarda quello lì, minchia ragazzi. Il tempo è assassino, dovremmo saperlo. Se non ci fosse poi queste occasioni non ce ne renderemmo conto. Miriam. Salve, buongiorno. Cosa le è successo? Ma 4-5 anni fa una nostra compagna di classe ha preso l'iniziativa, così ha radunato, ha cercato di contattare qualcuno, ci siamo incontrati prima in quattro, poi piano piano uno chiama l'altro, uno tira l'altro, uno ha notizie, e adesso regolarmente ci vediamo. Venerdì tra l'altro è stato appunto indetta una nuova cena, ma non siamo in tanti, poi variamo, però ci divertiamo. Ma dove vi vedete, dove vi incontrate? In pizzeria, abbiamo trovato questo ristorante pizzeria, ormai è quella di riferimento, facciamo queste cene un paio d'ore e secondo me regrediamo, cioè cominciamo a fare le battute che facevamo al liceo, poi in assenza di coniugi, no, ovviamente, quindi... Cioè vi scatenate, giocate a fare le... Da morire, ci ricordiamo episodi che magari... a volte mettono anche l'imbarazzo, vabbè. Me ne citi uno così si imbarazza insieme a noi. Qualche compagna di classe che si era scordata di aver avuto una storia con un compagno di classe alla cena dei 100 giorni, una storia un po' così volante, diciamo. Volante nel senso che erano appesi al soffitto. La cosa successa forse sarebbe avuto un pochino troppo, no? Ah, la solita cosa che beccano i due nello sgabuzzino. Sì, esatto, sì, solo che se n'era scordata, quindi diventa rossa. Insomma, non c'è miglior emozione di quando si viene colte con il sorcio in bocca, come si dice a Roma, quindi precisamente. Era quello. Va bene, quindi un'esperienza positiva, ripeto, sì, ovviamente non siamo più quelli di una volta. Ecco, però adesso alla decima rimpatriata che avrete rifatto la rassegna di tutte le leggerezze, cosa fate? Vi sparate? No, è intervenuto anche quello che sono le esperienze attuali, quindi ci si frequenta poco, tutte l'anno anche per... Siete diventata una consorteria di donne, avete rimesso insieme... quali donne? Uomini e donne, anzi, dovessi dire, più uomini che donne, no, è una cosa bella, ci divertiamo. Quindi voi compensate la sfigaggine dei vostri ex compagni di classe che alla fine del giro riscaldano la minestrina ai tempi del liceo? Non ho capito. Allora, voi compensate la sfigataggine dei vostri ex compagni di classe che gira dopo 20 anni riscaldano la minestrina delle loro ex compagne di scuola. No, non sono d'accordo, no, vabbè. È la mia ipotesi. Sì, vabbè, in certo senso sì, va bene. Certo. Gira e ti rigira, alla fine vanno riapprodare laddove erano partiti, diciamo. I primi brividi scolastici diventano la consolazione dei loro capelli bianchi. Vabbè, Miriam, fa un'opera buona. Davide. Buongiorno. Eccoci. Guardi, proprio ieri sera noi abbiamo fatto una seconda rimpatriata dopo breve tempo con i compagni di classe dell'elementare addirittura, con maestra presente. C'è ancora viva anche la maestra? Sì, esatto, sì, siamo tra i fortunati che ancora a 42 anni hanno la maestra viva e vegeta e in piena forma. E che ne avete fatto di questa festa? È stato uno scavare nei ricordi. No, ma ecco, mi spiega bene, perché io al liceo posso capire, perché siamo già adulti, abbiamo gli amori, le pulsioni, i desideri, le passioni politiche, le ideologie, i sogni, ma alle elementari cosa ci potete scambiare di ricordo di classe elementare? Di quei tempi in cui si era in tanti, io sono del 69, dunque eravamo veramente in tanti, c'erano i nostri genitori che erano amici fra di loro perché... Erano tutti giovani, si stava iniziando una nuova fase, diciamo, sociale. Dunque noi avevamo contatti sia a scuola che facendo sport al pomeriggio, il dopo scuola, amici. E quindi vi ricrogiolate, sembra quasi che l'idea che mi dà in questo momento, e sto cominciando a carezzarmi le vene dei polsi con una lametta ascoltando i vostri racconti, che a un certo punto si pietrifica l'esistenza e uno non fa altro che andare a ravvistare nei vecchi scatoloni, rindossa i panni del passato perché probabilmente nel presente non troverebbe più stimoli, ma non credo che sia proprio così. Procediamo pure l'appello. Rufolo Piero. Presente. Oh, e a lei che cosa è successo? Si è rotta la coppa dell'olio. Lei è il solito deficiente, Rufolo. Intendevo nella vita. Ah, nella vita? Sì. Ma io sarei docente. Ah, però. E in quale università? Ma io non ho parlato d'università, comunque insegno materie letterarie. Dove? Dove? A un liceo privato. A un liceo sulla Gassi. Allora perché usi il termine docente? Chiamati onestamente insegnante. O supplente, o precario. No, scusate, mettiamo i puntini sulla I. Io non sono di ruolo, io sono di straruolo. Ma scusate, state già a Ruffolo, allora sono stato salvato. Giuseppe Sanson, questo rituale masochistico della rievocazione dell'appello nell'insegnante resumata attraverso una specie di seduta medianica da un'alunna che ne fa l'imitazione. Sì, questo film è pieno di giochi crudeli di questo tipo. In questo caso si evidenzia una situazione molto tragicomica, effettivamente tragicomica, perché Verdone si vergogna di essere, siamo nell'88, si vergogna di essere un insegnante. Oggi probabilmente se ci si presentasse una rimpatriata e fosse insegnante di ruolo a tempo indeterminato esulterebbe. Oggi Verdone sarebbe il più figo dei suoi compagni di classe, perché è un attore famoso questo. No, però in quel contesto là un insegnante di ruolo fisso probabilmente esulterebbe, andrebbe con la a testa altissima, non certo in maniera balbettante e esitante. Invece qui era in posizione minoritaria rispetto a compagni di classe che invece sono tutti affermati, professionisti, quasi tutti, insomma. Anche perché la vita poi è singolare, di solito il più scavezzacollo, il meno studioso, il più infame diventa qualcuno, lo studioso, il primo della classe. Io mi ricordo che una volta rincontrai, finito il liceo, il primo della classe, quello che studiava più di tutti, un ex seminarista, bravissimo, sulla tutta memoria. Mi bussò alla porta di casa, vendeva quei prodotti per la casa porta a porta, e disse: ti prego, comprami un po' di Vetril, queste cose qua. Dico: ma che roba, non niente, acqua semplicemente, però devo vivere, comprami. Era il primo della classe. Beh, mio amico geniale, con cui sono rimasto in contatto tutta la vita, che conosce 5-6 lingue, ha scritto libri, adesso insegna italiano in Russia, è costretto, cioè è stato disperso in Russia. Un altro geniale nelle materie scientifiche, è costretto appunto ad andare a lavorare all'estero. Poi la mia generazione in questo senso, le rimpatriate sono ferocissime. È meglio essere l'ultimi della classe, sì, a volte appunto c'è una rivincita. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, a proposito di rimpatriate, le rimpatriate ferocissime, le racconto quello che è capitato a me, la prima rimpatriata che abbiamo fatto, poi le altre con una scusa qualsiasi le ho sempre evitate. Posso chiedere una cosa, Anna Maria, prego. Ma chi è il colpevole? C'è sempre nei vostri racconti qualcuno che si prende l'iniziativa il Filini, un giorno. Il Filini. Chi è? Era diciamo che il colpevole è quello che aveva fatto strada più di tutti fra di noi, che era praticamente al Parlamento Europeo di Bruxelles come interprete. E quindi cercava di allargare il suo collegio elettorale? Non era eletto, era come interprete, quindi non aveva niente a che fare. Pura vanagloria. Ma no, una persona simpaticissima che semplicemente aveva voglia di rivederci tutti. E vabbè, ci siamo rivisti. Premetto che io ho avuto una cotta spaventosa per un mio compagno di classe, di quelle cotte non ricambiate, anche perché sei quella piccolina cicciottella e quindi manco te guarda. Invece vabbè, adesso? Sempre piccolina e cicciottella. E l'ha guardata? No, sono io che non l'ho guardato, perché quando siamo arrivati a questa riunione mi guardo in giro, ricordavo un bel ragazzo alto, magro, con dei bellissimi occhi, e mi dirigo verso uno e gli dico: ah, tu sei... E mi fanno: no, dice, io... E mi dice un altro cognome. Mi guardo in giro, vedo uno tracagnotto, coi baffi. Schifoso. Beh, insomma, no, simpatico. Simpatico, detto, è terribile, simpatico. Sì, come la stima della moglie di Fantozzi. Sì, appunto. E niente, così è stato, mi sono accorta che credevo che fosse amore, invece era un caleste. Beh, però, scusi, 30 anni fa... L'intima d'azione avrebbe avuto il suo perché, che vuol dire, oggi è chiaro, gli anni passano e figuriamoci, cambiano anche i punti però di attrazione. Però è meglio non andare a rivedere? No, mai. Infatti non vorrei manco rivedere le persone che ho conosciuto ieri, figuriamoci quelle 30 anni fa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Santo la mazza. Santo la mazza. E che ti è successo? Incidente d'auto, un'ecatombe, ma non le leggete i giornali. Ha perso la moglie, due figli, la madre. Anche il cane, che era come un altro figlio. È rimasto un tronco umano. No, non mi fate vedere i tronchi umani, scusate. Io non fare così. Vabbè, lo faccio. È sensibilissimo. Vabbè. Già, si vergogna, non mi vuole scendere. Scusa, Rebora, ma non possiamo... E santo la mazza. Ti ricordi Ciardulli? Mike Foster? No. Brando, Tony Brando. Brando? È lucidissimo. Sì. Piano, piano. Brando. Il patata, te lo ricordi il patata? Patata. Patata. Vabbè, scusate, però mi ha lasciato una striscia di rumaga, mi ha lasciato. 800 24 00 24, anche nel rimpatriate di ex compagni di scuola c'è qualcuno che comunque riesce a rompere le convenzioni, come Santo La Mazza in questo caso. Qui c'è l'ipertrofia della goliardia scolastica: se da piccoli si lanciavano aeroplanini, poi da grandi Santo La Mazza, ovvero Benvenuti, è diventato un presidente di corte d'appello insieme a Ferrini, che invece è un ginecologo, decidono di fare uno scherzo feroce, però ormai sono allargati alla società e quindi simulano questo incidente accaduto a Benvenuti e quindi tengono in scacco l'intera festa, l'intera classe, mostrando questo paralitico finto che sbiascica, che vomita, bava ovunque, che è addosso a Verdone. Verdone simulerà quello che diventò veramente Nuti, il suo compagno, dei giancattivi come lui, sì, che è un giancattivo come lui. La famosa apparizione inutile nel programma della D'Urso era esattamente questo. Molto triste, sì. Noemi, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io non sono proprio d'accordo con la sua tristezza, nel senso che noi abbiamo fatto una rimpatriata qualche anno fa, coinvolgendo un po' tutti i compagni di classe del liceo dalla prima alla quinta. Lei era l'organizzatrice, Noemi? No, assolutamente, ma la cosa è partita un po' da un gruppo che si sono sentiti per caso e poi... Si è autosegata? Dio c'è, e purtroppo, anche per voi. Giovanni! È stata segata da un fulmine di vino, Noemi, perché stava esaltando il piacere della rimpatriata. Se la ritrovate però la faccio finire, se no sembra brutto. Non sono stato io a segarla. Giovanni, invece lei? Pronto? Sì, Giovanni. Giovanni pure c'è, anche Giovanni. Ma improvvisamente è scesa una falcida sulle telefonate. Oriana! Buongiorno signora. Vediamo se riesce a sopravvivere almeno lei. Io guardi, ho avuto l'esperienza di fare una rimpatriata l'anno scorso. Secondo me la trovo una cosa proprio di un masochismo pazzesco, perché mi sono ritrovata insieme a dei compagni di liceo, insomma di parecchi anni fa, io sono del 55 e dunque come lei mi sono messa da parte perché vedevo gli altri invecchiati. Io ero a un funerale, però che sì, è più o meno la stessa comunque, cosa. Insomma è più o meno la stessa cosa, perché io guardavo gli altri e dicevo chissà se loro mi vedono così. Anche sì, glielo posso assicurare, la vedono anche peggio, è così. Ecco. Allora, dopodiché sembrava di essere un reparto di geriatria, perché si parlava di chi ha avuto, chi non ha avuto, chi ha perso l'utero, chi gli è caduto. Io incontro una collega mi ricordavo tette e culo come qualcosa di straripante e la vedo come un chiodo. Faccio una battuta, guarda dove hai messo tette e culo, sei dimagrita, pensavo avesse fatto una dieta, invece mi ha detto no, mi hanno tolto lo stomaco. E quindi capisce che succedono queste cose. Quindi finita la cena, che ripeto è stata una cosa, ma proprio di una, io proprio l'ho trovata una cosa triste, tristissima, e tutto sommato preferisco ricordarmi, a parte che io trovo triste anche le fotografie quando le guardo, tristi nel senso che preferirei non guardarle, perché veramente il tempo, insomma ho trovato una cosa, alla fine della cena... Poi mi sono sentita come, come nel libro 10 piccoli indiani, perché o chi non c'era più, o chi era malato, chi c'era un cancro, chi era morto. Alla fine, mi creda, ho dato il mio arrivederci a mai più, perché preferisco ricordarmi le persone come erano, come le ho conosciute, come siamo stati 25, 30 anni, 40 anni fa. E mi piace pensare che questi cambiamenti fanno parte della saggezza che viene con l'età. Ma sai cosa penso io, Oriana? Penso che la vita in realtà è benevola, perché è una sorta di eutanasia del ricordo. La vita dolcemente ci fa sfumare ricordi senza darci queste, perché dobbiamo andare a cercare questi concentrati di realismo quando nessuno ci obbliga? Possiamo tranquillamente incamminarci anche con la nostra età, il tempo che è passato, che passa per tutti, ma possiamo viverlo anche bene, anzi cercare gratifiche. Per questo che io le dico, mi piace continuare, infatti ho salutato tutti per carità, però mi piace pensare che questi cambiamenti che fanno parte della vita, fanno parte di una saggezza che viene dall'età, più che andare a rinvagare un passato e quando, niente. È puro masochismo, diciamo la verità, è puro masochismo. È crudele masochismo. masochismo. Nessuno si obbliga, però lo fanno. I piccoli indiani, infatti, mentre ero seduti al tavolo, dicevo: allora, quest'anno manca questa, chissà un altro anno. E io non potevo sfregarmi niente perché non ho niente. Vabbè, potrà trovare a disposizione parecchi dei suoi compagni. Però ecco, 10 piccoli indiani. Tolti pannoloni e cateteri, sarebbero stati ben contenti. Oh, guardi, quest'anno lei c'è, un altro anno chissà chi mancherà. A questo punto, veramente, basta. Andiamo avanti. Fabris! No, scusate un attimo. Alza le braccia, non ti guarda. Non è neanche Barbagallo. Maria Rita, tu che sei psicologa, spiegaci l'arcano. Le mani? Dunque, si mangia sempre le unghie. Va ancora in moto a 35 anni. In quanto a maturità, pochi progressi. Dai Luca, togliti il casco. Giuseppe, facciamoci del male e andiamo avanti. Questa è Tina Cenci che interpreta la parte della psicanalista, che ovvio in una reminiscenza pseudo-prustiana come questa è il personaggio più bersagliato da tutti, cioè tutti cercano appunto di essere soluzioni e risposte, bilanci esistenziali, parlano della moglie, parlano della vita in generale. Lei, subissata per l'intera serata, reggerà, fino alla fine poi esploderà, poi sbotta, e si scoprirà i seni dicendo: ma sono una donna anch'io, non sono un punto d'ascolto qui improvvisato. Tutti ovviamente riversano il proprio malessere esistenziale in questo eterno presente. L'impatata in fondo è un eterno presente, una rimozione appunto. C'è una ricerca disperata di un eterno presente, ma in realtà non è così. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Allora, due cose vorrei raccontare. La prima, che i tentativi di fare queste rimpatriate, nel mio caso, sono sempre falliti. Di fronte al discorso: ma perché? Abbiamo tutti una nostra immagine, i nostri ricordi, perché andare a scardinare, a muovere, a aggiornare? Certi ricordi devono restare ricordi, è meglio che rimangano congelati così. Ma così per molti è come se si fosse esaurita la matrice dei ricordi, cioè non posso più creare dei nuovi stimoli di ricordo, quindi vado a tirar fuori dagli scatoloni, dai bauli, da sottoterra quelli vecchi. Ma non è così in realtà. Ogni istante che viviamo poi viene subito archiviato nei nostri ricordi. Io posso già attingere ai ricordi di ieri se voglio, non lo faccio mai. Il problema è mettere in moto questo ragionamento in molte persone e superare queste rigidità. Ecco, ma qual è la molla secondo lei? La solitudine, che non c'è tutto, uno fa un bilancio, non c'ha nessuno stimolo nel presente, cioè, beh, allora vado a ricercare i vecchi compagni di scuola, perché è contro natura farlo in realtà. Secondo me la paura è quella di avere dei ricordi, che sono dei bei ricordi, quasi come dei sogni, che poi possono essere demoliti, possono crollare e perdere anche quelli. Quindi allora è masochismo. Guardi, dunque, io leggo, ascolti bene, un ascoltatore ha scritto su un SMS: un ex compagno a 18-20 anni faceva l'attore di film porno, ora è medico chirurgo stimato. Ovviamente, noi che sappiamo, cerca di non frequentarci. Anche a lei è accaduto qualcosa del genere? A me è accaduto, e questa è la seconda cosa che volevo dire, che avevo un compagno di classe delle elementari che era il genio della classe. Il più bravo di tutti. Il più bravo di tutti, ma fuori misura. Quando tutti i bambini dicevano: io voglio fare l'astronauta, il calciatore, lui già negli anni 70 diceva: io voglio fare l'ingegnere di fisica nucleare. Ah, che bravo bambino. Che nessuno sapeva bene. La felicità dei suoi genitori sarà stato. L'orgoglio delle maestre. Sì, anche se il primo giorno di scuola, dicendo che lui sapeva già tutto, non voleva nemmeno entrare in classe. Me lo ricordo attaccato lo stipite dalla porta con la mamma e la maestra che cercavano di trascinarlo dentro, ma lui non voleva, che diceva che sapeva già tutto. E l'hanno tanto trascinato dentro che adesso dov'è? E adesso questo ragazzo, dopo averlo perso di vista per anni, ormai quarantenne passa, so che è in carcere. L'hanno trascinato dentro. E cosa ha fatto? Purtroppo adesso non so se posso fare i nomi. No, non faccia i nomi, ma dica cosa ha fatto. E praticamente è accusato di aver eliminato, ucciso due zii. Ha ammazzato due zii. Cioè, ammazzato almeno due zii, è stato un caso di cronaca nazionale a Brescia che molti ricorderanno. E quindi me lo sono visto, io mi immaginavo, chissà che futuro radioso avrà, me lo immaginavo. Però io ho molta, in questo bisogna avere anche, noi non siamo noi che dobbiamo giudicare, Questo non elude il fatto che lui potrebbe essere comunque un genio, il primo della classe. Si è trovato in una circostanza in cui ha fatto un gesto che non è bello fare, però secondo me non è così a contrasto con il fatto che fosse il primo della classe, anzi, proprio perché era il primo della classe probabilmente intorno a lui c'erano delle attese che alla fine ha deciso di interrompere drasticamente questa sorta di stimolo verso l'essere sempre il migliore. Va bene, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa. No, anzi, potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ragazzi, voi forse non mi capite perché voi vi andate bene a tutti. Qualcuno è pure per un zeppo di soldi, ma io credetemi, mi trovo in un momento molto, ma molto difficile. Lunedì c'è una scadenza, che se non la tamponi, mi mettono su tutti i giornali. Rischio il crollo dell'immagine, va bene? Il crollo? Ma da dove? Ragazzi, siete i più vecchi amici che ho. Aiutatemi. Quello che vi chiedo è di mettervi una mano sul cuore e l'altra nella tasca. Sì, e una qua, che... Basta con questa scena penosa. Vado a farti un assegno. Grazie. Grazie, Federica. Tieni, Tony. Grazie. Che almeno... Ce lo chieda in ginocchio, però. Mi sembra il minimo. Ecco qua. Stato. 800240024, stiamo parlando di rimpatriate con vecchi compagni di scuola. Una piccola notazione al di fuori dell'argomento. Questa mattina abbiamo lavorato un po' peggio del solito, perché questa mattina... come facciamo di consueto, non siamo riusciti a prendere le trame, le scalette, i dati necessari sui film che avevamo sempre facilmente a disposizione grazie a Wikipedia. Come vi siete accorti in molti, oggi Wikipedia in lingua italiana non esiste più. Ha una pagina che spiega che a seguito di quello che voi sapete, che ne abbiamo parlato lungamente in una puntata con il professor Rossetti, del comma 29, del cosiddetto DDL intercettazioni, Wikipedia non se la sente di rimanere online, perché se dovesse ogni volta accettare le rettifiche di tutti quelli che sentono impropriamente chiamati in causa, non potrebbe più seguire comunque l'aggiornamento delle pagine, e ci sarebbero dei grossi rischi anche pecuniari per le persone che lavorano a Wikipedia, che sono tutti volontari. Spero che si risolva questa situazione, perché penso che oltre alla Cina e qualche lontano paese in cui vigono regimi oltranzisti, non esista al mondo un paese in cui non c'è Wikipedia nella propria lingua, e questo lo trovo gravissimo. Giuseppe Sansonna, cosa abbiamo sentito? Abbiamo sentito Tony Brando alias Christian De Sica, questo personaggio archetipico degli anni 80, con questi capelli mesciati alla Sharpie, questa giacca traslucida. E il personaggio, forse la migliore interpretazione di Christian De Sica, un personaggio di una ferocia alla, da film di Pietrangeli, quindi si ritrova in questa festa con i compagni di classe e cerca di trasformarlo in un modo per rimediare soldi. Il feroce Benvenuti, finto paralitico, lo costringe a questa scena umiliante, ad andare in giro ginocchioni con il piattino in bocca che gli viene messo da Ferrini e a chiedere soldi ai vecchi. Non c'è cosa peggiore dell'ex compagno di classe che ti chiede soldi. Ti chiede soldi, tu ti senti in difficoltà a dargli perché sai che non te li ridarà mai più, ma allo stesso tempo è una sorta di ricatto morale. Francesco, da Pisa. Sì, buongiorno. Lei è a favore delle rimpatriate? Sì, volevo spezzare una lancia a favore delle rimpatriate, anche perché noi le facciamo periodicamente, ogni anno 3-4 volte ci ritroviamo, c'è lo zoccolo duro di 7-8 che organizza sempre a rotazione queste scene. E ma qual è il vantaggio? Cosa ve ne viene? Beh, ce ne viene il coltivare un'amicizia e il mantenere quei legami forti che si creano da ragazzi, in cui si matura insieme, si vivono le prime esperienze, comprese le prime esperienze amorose insieme, e poi poter mantenere questo legame nel passare del tempo. Non vi siete mai lasciati, quindi voi avete continuato a frequentarvi? Abbiamo continuato a frequentarci, ma un anno fa, in occasione del trentennale, siamo riusciti ad allargare il cerchio e il numero delle persone che ha partecipato, comprese le 3 o 4 belle che avevano sempre snobbato e disdegnato queste riunioni. E come erano ridotte? Erano ridotte notevolmente bene, in particolare una con la quale aveva avuto una relazione breve ai tempi della scuola e che invece è bastato rivederci per far scoccare nuovamente la scintilla dell'amore, un anno e mezzo che siamo insieme ora. Ah beh, vedi, non posso non parlarne bene. Una ripresina con senso comunque. Sì, con reciproca soddisfazione e piacere, e poi magari l'anno prossimo ci risentiremo e ci aggiorneremo sull'andamento del rapporto. Ah, perché non vi vedete per un anno poi? Sì, no, con lei, dicevo. Ah, con lei. Ah, con me. Ah, no, i migliori auguri, figuriamoci. Le auguro sia il bastone della sua vecchiaia, si figuri. Francesco da Brescia, invece. Buongiorno a tutti, complimenti. Ma l'argomento, vabbè, è sempre quello, la rimpatriata scolastica banale. Quello che volevo dire io è questo. L'anno scorso, in occasione del 25esimo della maturità classica, abbiamo tentato a distanza di 10-15 anni di ripeterla. La cosa veramente disarmante, a mio avviso, scioccante, è stata che a distanza di 25 anni dalla maturità alcuni compagni ancora hanno dei vecchi motivi di astio nei confronti di altri e che quindi si rifiutano a tutt'oggi di partecipare a queste Ma chissà cosa hanno dovuto subire. In realtà nulla di che, ma motivi stupidissimi, banalissimi, veramente di... Ma guardi, io non li sottovaluterei, però io ricordo di soprusi subiti, anche soprusi fatti ai tempi del liceo, del ginnasio, scuole medie, che meritano una sorta di scomunica vita. Io sono perfettamente d'accordo con le persone, non vogliono rivedere persone per le quali hanno sofferto, sono stati male, sono stati comunque messi in difficoltà. Donatella. Sì, buongiorno a tutti. Nicoletti, io intervengo assolutamente per dissentire da quello che lei ha detto finora di negativo nei confronti delle rimpatriate, però faccio un'analisi in base a tutti gli interventi che sono stati fatti e deduco che fondamentalmente le rimpatriate hanno esiti negativi intanto quanto i rapporti all'epoca tra i compagni di classe fossero negativi, nel senso che se la classe era disunita è assolutamente altamente probabile che poi la rimpatriata dia un esito negativo. La nostra classe, per esempio, è sempre stata molto unita, molto affiatata, eravamo i più festaioli della scuola, abbiamo sempre organizzato feste di ogni tipo. Sì, ma io, scusi, posso dire una cosa? Sì, la capisco, Natalia, ma io purtroppo, sì, lo so, ma nemmeno me le ricordo. Tra le feste del liceo e le feste, diciamo, dell'età più avanti, ne sono passati di anni. Ricordo più volentieri le feste fatte, che ne so, con i colleghi un anno fa, sei mesi fa. Ma non è vero, perché secondo me il discorso è proprio questo, cioè l'aver rapporto di affiatamento all'epoca e perpetuarlo poi. Ma come si fa a non essere affiatati al liceo? Scusi, che ancora la vita non abbiamo nemmeno un lontano sentore di quello che sia, non siamo antagonisti in nulla. Il massimo che ci possiamo contendere è l'amore di un compagno o di una compagna di classe. È difficile essere nemici al tempo. Metta le tensioni poi nel mondo del lavoro, quando si cresce, quando si diventa grandi. È un idillio, secondo me, innaturale pensare che questa situazione zuccherosa duri tutta la vita. Giuseppe, oddio, c'è anche una ferocia adolescenziale abbastanza presente, se vuoi, c'è anche una... Ma è propria, sorta di... è propria dell'età? Aspetta, chiudo la porta. No, parla. No, c'è una sorta di ferocia, anche di competitività strutturale, che in effetti un po' risulterà poi la metafora della società che verrà, della società in cui ci si andrà a incontrare. Però comunque, se si è amici veramente, anche dopo il liceo si continua a sentire, non c'è una necessità del rimpatrio poi post dopo molti anni. Dimostrare che però questo idillio non è sempre così è la testimonianza di Marco. Marco. Buongiorno dottore. Allora io volevo praticamente dire questa cosa qua. Circa dopo 20 anni abbiamo fatto una rimpatriata ex, diciamo, ragionieri. A me dispiaceva che tutti comunque... Avete dato il premio Fantozzi, mi dicono. Aspetta, nel senso che io tutti raccontavano le loro cose belle che ricordavano, tutti quanti, è successo questo, quell'altro. Invece mi sono divertito a tirare fuori proprio le cose brutte di due o tre di loro. Uno, per esempio, c'era una ragazza che ad ogni cosa che le succedeva, anche bella, magari un bell'otto in tecnica bancaria, eccetera, piangeva. E io le ho ricordato questa cosa qua. E lei dopo, tutti quanti a ridere, e dopo un po' lei ha cominciato a piangere. Ah, vedi, quindi continuava il suo problema. E quindi? E quindi poi l'ho ricordato di un altro ragazzo che lasciammo chiuso in palestra a scuola senza pantaloni, lo rivenderò a riprendere a mezzanotte, e il risultato è stato che gli altri rimpatriati non mi hanno più invitato. Quindi c'era stata una rimozione degli aspetti sgradevoli, lei l'ha ricordati, e lei è stato, come accade a tutti gli sfigati di ogni classe, mai più rinvitato. Giuseppe Sansonna, chiudiamo. La rimozione per l'otto in tecnica bancaria, ricordo che mi porterò di questa trasmissione. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie al professor Alessandro Chiappini, tornato da noi anche se senza una mano. Grazie Fabrizio Intonti, a domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est partis dans tourbillon la vie.